Rino, quality basta. Sham, sham, sham, Rino do. R-A-N, Rino, Rino. R-A-N, Rino. Tra ostacoli e persone con tentacoli non siamo predisposti più né credere ai miracoli. Volatili, promesse, le storie qui le stesse. In questa terra non c'è mai nulla che cresce. Teste che si scontrano, tipi che si affrontano non sapendo neanche loro poi cosa vogliono. Troppe indecisioni, futili discussioni. Tipi che con intuizioni svoltano milioni. Soldoni a parate, vacanze rilassate. Persone che di sé stronzate sono abituate anche alla fame. In questo mondo infame dove chiunque ha messo piedi nel catturato trame, male o bene non c'è differenza, basta viaggiare sulla stessa frequenza, dare un senso alla nostra esistenza. Pazienza, pazienza, pazienza, pazienza, ci vuole resistenza per quello che facciamo, per come lo pensiamo, se poi lo realizziamo. E se ci domandiamo che fare, sappiamo subito chi ci può aiutare. Ci vuole pazienza, coerenza, frequenza, per dare esistenza alla nostra esistenza. Ci vuole coerenza, portare esistenza, pazienza. Pazienza, pazienza, ci vuole pazienza, coerenza, frequenza, per dare esistenza alla nostra esistenza. Ci vuole coerenza, molta resistenza, pazienza, pazienza, pazienza. Spero che tu hai capito che sta vita è strana, cambiamo tana ogni settimana. Io faccio ogni giorno quello che mi sembra giusto, faccio quel che faccio senza tana alcun sospetto. Detesto aspettare e criticare, detesto soprattutto chi non sa comunicare. La parola sai è la lama più tagliente, non serve a niente che facci prepotente. La gente poi sparla, non mi tiene a galla. E man mano vedi come questa vita cambia, intorno vedo solo ostilità e rabbia. La mia vita come vento sulla sabbia, in gabbia sai, mi volevano mettere, senza poi ammettere che m'hanno visto crescere. Gli errori si pagano, lo so, ed è sicuro che non lo rifarò. Ci vuole pazienza, coerenza, frequenza, per dare esistenza alla nostra esistenza. Ci vuole coerenza, portare esistenza, pazienza, pazienza, pazienza. Ci vuole pazienza, coerenza, frequenza, per dare esistenza alla nostra esistenza. Ci vuole coerenza, portare esistenza, pazienza, pazienza, pazienza. Pazienza, è così che io vivo, così che respiro, così che continuo. Rino, si aggira la notte, si prende tante botte, la vita sommosse, forse. Cresco con ideali, pacchi sovrumani, in faccia tanti pali. Animali che assalgono ogni giorno il mio pensiero, perdono terreno, io acquisto questo siero. Mi rende più forte, sfondo tante porte, mi spingo sempre oltre, mai ho avuto soste, forse. Create, evitate, alcune assolutamente saltate. Voi lasciatemi stare in questo mare, mentre continuo a remare per non affogare, e sempre andare per non avere. Questa è l'assurda legge di chi c'ha il potere. Ci vuole pazienza, coerenza, frequenza, per dare esistenza alla nostra esistenza. Ci vuole coerenza, portare esistenza, pazienza, pazienza, pazienza. Ci vuole pazienza, coerenza, frequenza, per dare esistenza alla nostra esistenza. Ci vuole coerenza, portare esistenza, pazienza, pazienza, pazienza.